mess comes from your ass. Fuck weed is for CSS. We didn't come into the world to walk around. We came here to take you out. Come with us, we'll make a toast for this time about to come. Eccoci con la quarta puntata di Sui Generis. Sono rimasta agli anni Ottanta, ma posso migliorare. Sbiaccio spazio temporale nel mondo della musica di donne, tra epoche, ritmi e incursioni sui generis. Stasera parliamo di anni 70 e voglio iniziare la puntata riportando queste parole. La rabbia per le donne nella musica, per me, era una questione di principio. Era originata dalla convinzione che una ragazza non potesse suonare la chitarra mentre a scuola sedevi accanto a ragazze che suonavano il violino, il violoncello, Beethoven e Bach. La rabbia nasceva dalla consapevolezza di non avere una possibilità, dal sentirsi dire di tacere e comportarsi come una gentildonna. Nel momento in cui inizia a imporre queste idee di merda, scoppia una guerra. A parlare è Joan Jett, siamo negli anni 70, e a parlare appunto è la fondatrice delle Runaways, ma anche una delle fondatrici del movimento delle Riot Girl. In quel periodo in cui il rock era dominato esclusivamente da uomini, a volte di aspetto ambiguo, soprattutto negli anni, nei qui anni 80, un gruppo di sole donne in grado di comporre e suonare le proprie canzoni tutte da sole sarebbe stata una rivoluzione a prescindere dall'età adolescenziale delle componenti. Sono gli anni in cui le donne non possono trovare spazio e credibilità nel folk, ma ancora non nel rock. Janis Joplin era superata, Susie Quattro, di cui parleremo a breve, non era abbastanza conosciuta, e Patti Smith doveva ancora esordire. Nessuno aveva fino a quel momento mai osato proporre questo genere di musica. I tempi invece erano maturi per un gruppo rock al femminile. In quegli anni appunto nascevano le Runaways. di cui appunto parliamo stasera, e di cui subito voglio farvi sentire un primo pezzo. Il pezzo è You Drum Me Wild, lo ascoltiamo subito e poi parleremo un po' delle Runaway. You Drum Me Wild dall'album Runaways del 1976. Appunto parliamo delle Runaway, che vengono ricordate come la prima band composta da sole donne che suonava rock and roll. La band era gestita da un manager senza scrupoli, Kim Foley, che le lanciò dopo aver conosciuto la cantautrice Carrie Chrome dopo un party organizzato da Alice Cooper. Kim Foley capì che i tempi erano maturi per formare una band rock and roll di sole donne, e quindi diciamo dopo varie peripezie riuscì a formarla, anche se il progetto era solo per lui un progetto per fare soldi. Difatti diciamo nel film omonimo The Runaways del 1910, diretto da Floria Sigismondi, si vede, viene raccontato abbastanza bene questo questa modalità che aveva il manager di gestire il gruppo. La pellicola non è mai uscita nelle sale italiane, tuttavia è possibile vederla, perché si trova anche, diciamo, il film è stato doppiato. Tuttavia Kim Foley portò le ragazze a un successo abbastanza importante, in quanto le Runaways fecero vari tour internazionali, e tra le varie nazioni anche un tour in Giappone, che segnò in qualche modo la fine del gruppo. Infatti, un po' per la pessima gestione da parte del management, un po' per vari abusi di sostanze, varie dinamiche che si erano create all'interno del gruppo, prima fu la chitarrista a lasciare il gruppo, seguita da Jean Jette, che è stata poi quella tra le varie componenti del gruppo che ha proseguito la sua carriera. Dicevamo appunto che è stata anche una delle fondatrici del Riot Girl. Quindi appunto proseguì la sua carriera, appunto, Jean Jette, come solista. E la ricordiamo in un brano abbastanza famoso con The Black Hearts. Il brano è I Love Rock and Roll, dall'album omonimo, e l'ascoltiamo adesso. Siamo su Radio Onda Rossa, sono le 22:28, ascoltiamo The Runaways, The Black Hair in I Love Rock and Roll. I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. era I Love Rock and Roll di John Jett e The Black Hearts, una canzone che è tratta appunto dall'omonimo album. È stata sicuramente riconosciuta come in assoluto il brano più famoso, è stato riproposto da artisti come i Five Miles Cyrus e anche da Britney Spears. Siamo negli anni 70, questa è la quarta puntata di Sui Generis, sono rimasta agli anni 80 ma posso migliorare. Potete ascoltare le altre puntate che sono state fatte sul nostro blog mfla.noblogs.org, la prima puntata sul Sound Group Movement, la seconda sulle cantanti blues anni 20, la terza sulle Riot Girl. Stasera siamo qui a parlare degli anni 70 e sempre negli anni 70, infatti, possiamo sicuramente citare anche la figura di Susie Quattro, la prima bassista donna a diventare una rockstar di successo. Nei primi anni 70, infatti, la musicista che era USA si trasferì in Inghilterra, dove, notata da un produttore discografico dal nome che si chiamava Mickey Most, venne in qualche modo appunto prodotta e promossa. Perché diciamo l'obiettivo era quello, in qualche modo, obiettivo seppur molto ambizioso, quello di sostituire il posto e riempire il posto che aveva lasciato Janis Joplin. Negli anni 70 Susie Quattro fece parecchi pezzi e influenzò successivamente anche molte cantanti rock, tra le quali la stessa Joan Jett. Il pezzo che vorrei farvi ascoltare adesso è un pezzo tratto dall'album Can the Can del 1974. Il pezzo che ho scelto per voi stasera è Roman Fingers. Lo ascoltiamo subito. Ecco Susie Quattro per noi. Whiskey, tea, so, because you please me so, because you please me so, because you please me so. Stavamo ascoltando Susy 4 con Roman Finger, dall'album di debutto pubblicato nel 1974, Can to Can. Continuando un po', diciamo, in maniera così generalistica, forse, nel senso che poi gli anni 70 sono stati tante cose, però in questa puntata cercheremo un po' di capire chi ha debuttato in quegli anni e chi è diventato poi famoso o famosa, direi in questo caso, negli anni successivi. In quegli anni debutta anche Kate Bush con l'album The Kick Inside. E diciamo che il pezzo che ascoltiamo stasera è un pezzo molto famoso. La canzone è svettata al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo e anche per molto tempo in Italia. E sicuramente molte di voi se la ricorderanno. Parliamo del pezzo che si chiama Wandering Hate, dal romanzo di Emily Bronte, Cime Tempestose. Però mi faceva piacere ricordarlo perché è proprio un cult di quegli anni. Lo ascoltiamo subito, ascoltiamo Kate Bush. Greedy, how could you leave me when I needed to? Era Kate Bush in un pezzo famosissimo negli anni 70. Prima di continuare con il resto della storia, di capire un po' quali sono state le donne che hanno esordito negli anni 70, volevo spezzare un po' con una canzone di altri periodi, in particolare con un pezzo di Santi Gold del 2008, il pezzo si chiama Les Artistes e lo ascoltiamo subito. Un attimo, eccoci qui, lo ascoltiamo adesso. Parte a dopo. Rieccoci, dopo questo diciamo intercalare un po' più moderno, continuiamo con la musica anni 70 e parliamo di una grande di quegli anni. Gli anni 70 infatti sono gli anni in cui è esordito anche Patti Smith con l'album Horses, che è stato pubblicato e prodotto da John Cale. E il suo debutto è stato fondamentale almeno per due ragioni. Uno, perché è da tanto che non si sentiva una voce, forse non si era mai sentita una voce così grintosa nella scena rock, e un'altra perché in qualche modo veniva riconosciuta come una testimonianza importante del punk newyorkese, per quanto poi successivamente il punk con i Sex Pistols diventò qualcos'altro. La carriera poi di Patti Smith proseguì successivamente con altri album quale Radio Utopia, Easter Wave. È proprio in questo album che in maniera provocatoria la Patti Smith inserisce una foto di Papa Luciani dicendo che in qualche modo la musica è una riconciliazione con Dio. E ascoltiamo adesso il brano appunto omonimo dell'album Horses. Il brano è Land Horses of Thousand Dance or Delemar. Ascoltiamo adesso Patti Smith. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's being surrounded by horses, horses, horses, horses. Coming in all directions. White, shining, silver. Studs with their nose in flames. He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. Do you know how to pony? Like Boney Maroney. Do you know how to twist? Silken hair and found a stair, and I didn't waste time. I just walked right up and saw that up there, it is a sea up there. There's a sea up there. There's a sea, he sees the possibility. There's no land but the land. There's no sea but the sea. Possibilities up there. Of the key. There's a wall of possibilities. Possibilities one up there. Possibilities. There are several walls. Possibilities. The possibilities up there. The first possibility is to see around me. I'm standing there with my legs spread like a sailor. His hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny. Handed him like a branch of coral flame in the heart of man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spewing, and let it dip in the veins, dip in to the sea, to the sea. Of possibilities, dip in, started hardening sea, in my hand, to the sea, and I felt the arrows of possibilities. I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brainiac, no more, but no more, no more. I gotta move from my mind to the air. Queste note che si conclude questa quarta puntata di Sui Generis. Ci vediamo tra un mese. Ripartiamo con Patti Smith. And there's a red stream went streaming through the sands like fingers, like arteries between like fingers. The eyes of a horse pressing it against his throat. Your eyes. He opened his throat. Your his vocal cords started shooting like of a horse. And the pituitary glands screaming made and my heart so high. My heart that nobody heard. No one heard that cry. No one Johnny. Heard butterfly flapping in his throat. Nobody his fingers. Heard. He was on that bed. It was like his a sea of jelly. And so he throat. Seized. First his vocal cords shot up. Possibility had pituitary glands. It was a black tube. Felt himself disintegrate. Nothing happening. Go inside the black tube. Said so when he looked out into everything deep, saw this weekend thing. Fender wine humping on the pocket meat, leaning on the pocket meat, and in the sheets there was a man dancing around to a simple rock and roll song.